Dunque, ci sono state una serie di azioni dislocate nel quadrante est a ridosso della stazione Termini, per capirci. In un primo momento sono stati i senegalesi a effettuare dei blocchi stradali, successivamente sono confluiti al Pigneto. Subito dopo, un nutrito gruppo di antifasciste e antifasciste ha percorso alcune strade partendo da San Lorenzo e avvicinandosi a via Principe Eugenio. Lì davanti, praticamente in prossimità dell'incrocio, in cui poi dopo c'è la sede di Casa Pound, c'era un folto schieramento di forze dell'ordine. Al nostro arrivo, insomma, sono partite immediatamente delle cariche che si sono protratte abbastanza a lungo, fino più o meno, diciamo, al tunnel che congiunge Piazza Vittorio a San Lorenzo. I compagni a quel punto hanno in un primo momento risposto a queste cariche, dopodiché sono riusciti a ripiegare in maniera, diciamo, anche compatta e ordinata verso il quartiere. Si è trattato, diciamo, di una risposta così di livello spontaneo, che ha provato a dare un'indicazione chiara per tutta la città e che crediamo debba da qui in avanti, insomma, essere assurda come basilare, e cioè che la possibilità, diciamo, di frenare questi istinti omicidi che sono coltivati dai fascisti e, come ben sappiamo, insomma, stimolati anche da una propaganda che lungo tutto l'ultimo decennio ha dipinto lo straniero come soggetto da colpire. Bene, crediamo, insomma, che per respingere al mittente questa operazione tutto ciò debba passare per la chiusura di quel covo di fascisti, per la chiusura di Casa Pound. Credo che questo sia un messaggio ormai che stia partendo all'unisono anche da altre realtà italiane. Sì, e mi pare, insomma, che anche a Firenze e nelle altre città, certo, che abbiamo registrato, si sono mobilitate, stiano dando questa come indicazione chiara, anche perché, mi limito ad aggiungere, l'operazione che stanno invece conducendo i media, l'informazione, è proprio quella di, in un certo senso, proteggere Casa Pound dalle responsabilità che ha in queste azioni squadriste e omicide, che peraltro, lo sappiamo, insomma, ieri hanno avuto questo exploit, e che però, insomma, si stanno protraendo nel tempo, ormai da lungo tempo. Già poche settimane fa c'era stata un'altra aggressione, insomma, in quelli di Montesagro, per cui sì. Questo è il quadro fino a oggi.